Il terzo anello ad alta voce. I Buddenbrock di Thomas Mann. Ogni seggio che si rende vacante nel Senato deve essere rioccupato entro 4 settimane. Così vuole lo statuto. 3 settimane sono già passate dalla morte di James Möhlendorf e ora è venuto il giorno delle elezioni, un giorno di disgelo alla fine di febbraio. Nella via larga, davanti al municipio, tutti stanno impassibili nella neve molle che si va squagliando sotto i piedi, si guardano tra loro e allungano il collo. Là, infatti, dietro quel portale, nella sala del consiglio dove 14 seggioloni sono collocati a semicerchio, l'assemblea elettorale, composta dei membri del Senato e del Consiglio Comunale, aspetta ancora le proposte dei collegi. La faccenda è andata per le lunghe. Pare che il dibattito nei collegi non voglia finire, che la lotta sia dura e che fino a questo momento non sia ancora proposta all'assemblea un'unica persona. Dietro a 2 operai dalla barba dura di pescatori che stanno masticando tabacco, si nota una signora che volge la testa di qua e di là in grande agitazione per poter vedere il municipio di fra le spalle di quei 2 pezzi d'uomini. Essa porta una specie di lungo mantello da sera guarnito di pelliccia bruna che tiene insieme internamente con le 2 mani mentre ha il viso coperto da una fitta veletta marrone. Con le scarpe di gomma zampetta senza posa nella neve che si scioglie. Improvvisamente si ode una voce dal portale. «Hanno eletto Heini Seehase!» Bisogna sapere che Seehase è un eterno ubriacone che va intorno con un carretto a vendere ciambelle. Tutti ridono e si alzano sulla punta dei piedi per vedere il mattacchione. Anche la dama velata è presa da un riso nervoso che per un attimo le scuote le spalle. «Hagenström!» La notizia giunge non si sa da dove. C'è come sorta dalla terra o caduta dal cielo ed è dappertutto contemporaneamente. Nessuna smentita, ormai è deciso. Hagenström. Eh sì, così è. È passato in queste condizioni appena un secondo, allorché un urto improvviso, un movimento ondeggiante, attraversa la folla, una spinta che si propaga dalle prime file. Le giubbe scarlatte dei 2 inservienti comunali, Kaspersen e Ulefeldt, in gran gala, col tricorno, i calzoni bianchi, gli stivaloni gialli e lo spadino, compaiono l'uno a fianco dell'altro e si avviano in mezzo alla moltitudine che fa l'arco. Passano come il destino, seri, chiusi, silenziosi, senza guardare né a destra né a sinistra, a occhi bassi, e prendono con decisione inesorabile la direzione che i risultati dell'elezione, dei quali sono informati, han loro segnato. Ed ecco, non è la direzione della Sandstrasse, bensì a destra, la via larga. La dama velata non crede ai propri occhi, ma tutti se ne accorgono intorno a lei. La gente si accalca nella stessa direzione dietro i 2 inservienti e va ripetendo «No, no, non è Hagenström, è Buddenbrock!» E già si vedono uscire in animato colloquio molte persone dal municipio, le quali prendono frettolosamente la via larga per arrivare tra i primi a presentare le loro congratulazioni. La signora si stringe il mantello e parte di corsa. Corre come di norma una signora non corre. Il velo si sposta e le scopre il viso accaldato, ma non importa. E quantunque una delle sue soprascarpe orlate di pelliccia scivoli continuamente sulla neve molle e le sia di perfido inciampo, essa riesce a sorpassare tutti gli altri. Arriva per prima alla casa d'angolo della Beckgrube, tira il campanello come si trattasse di incendio o assassinio, dice alla fantesca che apre «Vengono, Tinka, vengono!» Infila la scala e si precipita nel salotto dove suo fratello, un po' pallido davvero, depone il giornale e fa un gesto come per trattenerla. Ella lo abbraccia e va ripetendo «Vengono, Tom, vengono! Sei eletto tu! Hermann Hagenström è bocciato!» Thank you. I nostri desideri e le nostre azioni procedono da certi bisogni dei nervi che è difficile determinare a parole. Quella che si diceva la vanità di Thomas Buddenbrook, la sua cura nel vestirsi, il lusso esteriore, era in realtà una cosa del tutto diversa. In origine non era nient'altro che l'aspirazione di un uomo d'azione ad essere sempre da capo a piedi consapevole di quella correttezza e integrità che costituiscono il fulcro interiore. Ora le esigenze che egli stesso e il mondo ponevano alla sua intelligenza e alle sue energie andavano crescendo. Era sovraccarico di doveri privati e pubblici. Nella distribuzione delle cariche fra i membri del Senato gli era toccato come dicastero principale quello delle imposte. Ma anche questioni ferroviarie, doganali e altri affari pubblici richiedevano la sua attività e in mille assemblee di consigli d'amministrazione e di sorveglianza, dei quali una volta eletto gli era toccata la presidenza, doveva ricorrere a tutta la sua accortezza, alla sua gentilezza ed elasticità per non urtare mai la suscettibilità di persone molto più anziane di lui, per subordinarsi apparentemente alla loro più vecchia esperienza, pur tenendo il potere nelle proprie mani. Il fatto strano che la sua vanità, il bisogno cioè di ristorarsi fisicamente, di rinnovarsi, di cambiare abito più volte al giorno, di conservare la sua freschezza mattutina, andava aumentando in modo visibile, significava semplicemente, quantunque Thomas avesse appena 37 anni, un rilassamento della sua elasticità, un più rapido logorio delle sue energie. Quando l'ottimo dottor Grabow lo pregava di concedersi un po' di riposo, gli rispondeva: «Oh, caro dottore, non sono ancora a questo punto». Con ciò voleva dire che lo aspettava ancora un lavoro infinito prima di poter forse un giorno conquistarsi una situazione nella quale, essendo giunto al termine, avrebbe potuto godersi la vita comoda. In realtà non credeva affatto a una tale situazione. Tutto lo spingeva avanti senza pace. Non era dunque presunzione se nell'estate del 63 il senatore Buddenbrook ventilò il piano di costruirsi un nuovo grande palazzo. Chi sta bene non si muove, ma la sua irrequietezza lo spingeva avanti e i suoi concittadini avrebbero potuto ascrivere quell'impresa alla sua vanità. Infatti era proprio così. Una casa nuova, un mutamento radicale della vita esteriore, lo sgombero, il trasloco, il nuovo arredamento con eliminazione del superfluo e di ogni vecchiume accumulato negli anni passati. Queste prospettive gli davano un senso di pulizia, di novità, di freschezza, purezza e ristoro. E certo, egli dovette sentirne il bisogno, poiché vi si buttò con zelo e aveva già messo gli occhi su un dato terreno. Era un terreno piuttosto esteso in fondo alla Fischergrube. Vi era in vendita una vecchia casa maltenuta, la cui proprietaria, una zitella vecchissima, era morta da poco. Vi aveva abitato sola sola, ultimo residuo d'una famiglia dimenticata. In quel luogo il senatore intendeva far sorgere la sua casa e ogni volta che scendeva al porto vi passava facendo le sue osservazioni. Thomas tese tutte le energie per concretare l'impresa. Fece un preventivo approssimativo e, per quanto la somma stabilita provvisoriamente non fosse esigua, vide che poteva spenderla senza troppi sforzi. Tuttavia, impallidì al pensiero che poteva essere forse un colpo inutile, poiché ammetteva che la casa dove abitava era più che sufficiente per lui, la moglie, il bambino e la servitù. Ma i suoi bisogni semicoscienti erano più forti, e desiderando trovare un appoggio e quasi un'autorizzazione dal di fuori, si confidò anzitutto con sua sorella. «In breve, Tony, che cosa ne pensi tu? La scala a chiocciola per scendere nel bagno è molto graziosa, ma il complesso non è che un baraccone. Poco presentabile, vero? E ora che sei riuscita a farmi eleggere senatore, insomma, ti pare che mi spetti?» Dio mio, che cosa non gli spettava secondo Madame Permaneder? Ella ne fu entusiasta. Il secondo consenso che Thomas andò a prendere fu quello di Gerda, la quale approvò senz'altro il progetto. Certo, il trambusto del trasloco non era molto piacevole, ma l'idea di avere una sala da musica ampia e acustica la rendeva felice. Le Buddenbrook della Via Larga non si nascondevano e non si prendevano certo la briga di stare zitte che il piccolo Johan era paurosamente tardivo nel camminare e nel parlare, e non avevano torto. Bisognava ammettere che Hanno, era questo il vezzeggiativo adottato per suo figlio dalla moglie del senatore Buddenbrook, mentre sapeva già chiamare quasi correttamente tutti i membri di famiglia, non era ancora capace di pronunciare in modo comprensibile i nomi di Friederike, Henriette e Pfiffi. In quanto a camminare, benché avesse 15 mesi, non era riuscito a fare un passo da solo, e fu allora che le signorine Buddenbrook dichiararono, crollando il capo disperatamente, che quel bambino sarebbe rimasto muto e sciancato per tutta la vita. In seguito dovettero riconoscere che quella triste profezia era stata un errore, ma nessuno poté negare che Hanno era un po' arretrato nello sviluppo. Fin dai primi giorni aveva dovuto sostenere fieri assalti che avevano tenuto i suoi in continua apprensione. Era venuto al mondo silenzioso e debole e, poco dopo il battesimo, un attacco di diarrea con vomito, durato solo 3 giorni, era quasi bastato per fermargli definitivamente il cuoricino messo in moto con tanta fatica. Rimase in vita, e il dottor Grabov stava prendendo le misure contro le crisi minacciose della dentizione, con cure speciali e con un'alimentazione razionale. Ma appena la prima puntina bianca fu lì lì per forare la gengiva, ecco che si manifestarono convulsioni, le quali si ripeterono poi alcune volte in modo pauroso. E ancora una volta si arrivò a tal punto che il vecchio medico strinse le mani ai genitori senza dire una parola. Il piccolo era sfinito, e lo sguardo fisso degli occhi affondati nell'ombra faceva supporre un'affezione cerebrale. La fine parve quasi desiderabile. Tuttavia, Hanno riprese le forze. Il suo sguardo incominciò ad afferrare gli oggetti, e se anche le crisi sofferte rallentarono i progressi nel parlare e nel camminare, non c'era più da temere alcun pericolo immediato. Hanno aveva le membra snelle e per la sua età era piuttosto alto. A quell'epoca incominciarono a crescergli con insolita rapidità i capelli color castano chiaro, morbidissimi, che quasi impercettibilmente ondulati gli ricadevano sulle spalle del grembiulino pieghettato. Già incominciavano ad emergere le somiglianze di famiglia. Fin da principio egli aveva decisamente le mani dei Buddenbrook, larghe, un po' troppo corte, ma ben formate. E il naso era tutto quello di suo padre e del bisnonno, anche se le pinne pareva dovessero rimanere più morbide. La parte inferiore del viso, piuttosto stretta e allungata, non era invece né quella dei Buddenbrook né quella dei Kröger, ma veniva dalla famiglia materna. Come del resto anche le labbra tendevano già allora a star chiuse e strette, con un'espressione di malinconia e insieme di timidezza. Quell'espressione alla quale più tardi si andò sempre più adattando lo sguardo dei suoi strani occhi dorati con le ombre azzurrine. Sotto gli sguardi pieni di tenerezza contenuta coi quali il babbo lo osservava, fra le attenzioni con cui la mamma sorvegliava la sua salute e i suoi vestiti, adorato dalla zia Antonì, fra cavallucci e trottole regalati dalla vecchia signora Buddenbrook e dallo zio Justus, egli incominciò a vivere, e quando la sua graziosa carrozzina compariva per la strada, la gente la seguiva con uno sguardo pieno di interessamento e di aspettativa. A proposito della signora Decio, la degna bambinaia che per il momento era ancora in servizio, si era ormai deciso che nella casa nuova non sarebbe entrata lei, bensì Ida Jungmann, mentre la vecchia signora Buddenbrook avrebbe provveduto a cercarsi un altro aiuto. Una domenica, ai primi di luglio, il senatore Buddenbrook era entrato nella nuova casa da circa un mese, la signora Permaneda si presentò la sera tardi da suo fratello. Attraversò il fresco vestibolo ornato con bassorilievi di opere di Thorvaldsen, che dava a destra negli uffici. Suonò il campanello alla porta che si poteva aprire dalla cucina premendo una palla di gomma, e ai piedi dello scalone, dove c'era l'orso donato da Tiburzius, venne a sapere dal servo Anton che il senatore era ancora al lavoro. «Va bene», disse. «Grazie, Anton, vado da lui». Thomas era solo là dentro. Era seduto al solito posto davanti alla finestra e stava scrivendo una lettera. Alzò lo sguardo sollevando un sopracciglio e porse la mano alla sorella. «Buonasera, Tony. Che cosa mi porti di bello?» «Oh, niente di bello, Tom. Il fatto è questo», disse esitando la signora Permaneder. «Tiburzius scrive...» «Clara», domandò Thomas. «Breve, per favore, senza preamboli». «Sì, Tom, è a letto e sta molto male. Il dottore teme che si tratti di tubercolosi cerebrale». «È ben duro dover pronunciare queste parole. Ecco qua la lettera che mi scrive il marito. C'è anche un altro foglio accluso. Anche questo indirizzato alla mamma, ma scritto da Clara stessa a matita, con mano malferma. Dice Tiburzius che, scrivendo, Clara ha detto che sono le sue ultime righe. Infatti la cosa più triste è che lei non faccia alcuno sforzo per vivere. È vero che ha sempre desiderato salire al cielo», concluse la signora Permaneder asciugandosi gli occhi. Il senatore camminava al suo fianco in silenzio con la testa bassa, le mani dietro la schiena. «Non dici nulla, Tom. Hai ragione. Che cosa si deve dire? E proprio adesso che anche Christian è ammalato ad Amburgo». Così era, infatti. Il tormento di Christian al fianco sinistro era talmente aumentato negli ultimi tempi a Londra, si era trasformato talmente in spasimi reali, che gli aveva fatto dimenticare tutti i suoi disturbi minori. Non aveva più saputo a che santo votarsi. Aveva scritto alla mamma che non poteva fare a meno di ritornare a casa per farsi curare da lei. Aveva abbandonato il suo posto a Londra ed era partito. Ma appena arrivato ad Amburgo si era dovuto mettere a letto. Il dottore aveva trovato un reumatismo articolare e fatto portare Christian dall'albergo all'ospedale, perché per il momento non era possibile che proseguisse il viaggio. E là Christian dettava al suo infermiere lettere molto tristi e turbate. «Già», fece il senatore sottovoce, «pare che una disgrazia tiri l'altra». Ella gli pose un braccio sulle spalle. «Però, Tom, non devi perderti di coraggio. Non ne hai ancora il diritto. Forza ci vuole». «È proprio vero, ne avrei bisogno». «Che dici, Tom? Ma spiegami. Ier l'altro, giovedì, perché sei stato così taciturno tutto il pomeriggio? Si può sapere?» «Oh, che vuoi, affari, mia cara. Ho dovuto vendere una partita di segale non molto piccola, non molto vantaggiosamente, o diciamo con franchezza, una grossa partita tutt'altro che vantaggiosamente». «Oh via, Tom, son cose che capitano. Oggi ti tocca così e domani recuperi tutto. Non è il caso di guastarsi subito il buon umore». «Sbagliato, Tony», disse scuotendo il capo. «Il mio buon umore non è sotto zero perché ho avuto una perdita, ma viceversa. Di questo sono convinto. Dunque, è esatto». «Ma a proposito del tuo umore», esclamò lei spaventata e stupita, «dovrebbe essere piuttosto allegro, caro Tom. Clara è viva e vedrai che, con l'aiuto di Dio, tutto andrà bene. E per il resto, la tua casa bella come un sogno. In confronto, Hermann Hagström abita una catapecchia. E tutto questo è merito tuo». «Infatti, Tony, è quasi troppo bello. Voglio dire, è ancora troppo nuovo e mi turba ancora un poco. Credo che da qui derivi quel malumore che mi prende e mi danneggia in ogni cosa. Ho pregustato moltissimo questa gioia, ma come sempre, quel pregustare fu la parte migliore, perché il bene arriva sempre troppo tardi, si avvera sempre troppo tardi, quando non si ha più la possibilità di goderne». Thank you.